si sentiva la ventola. Sì, la ventola si sente la pernata. Che microfono è questo? È il 60. E adesso sto facendo forte, bene. Chiara, chiara. Allora, le rimetto il tappo e le viti. Cosa c'è per? No, stavo provando, gli avevo collegato l'alimentazione dalla radio direttamente, però fa quello scherzo lì. Adesso provo a invertire i fili nello spinotto, forse siano i fili della portante del PTT che vogliano messi al contrario, dai. Scusa, ma le MC60 non ce l'ha già dalla casa l'alimentazione per fare l'alimentazione della Farina? Io l'ho comprato e non ho toccato nulla, l'ho attaccato e andavo con l'alimentazione della Farina, quando c'avevo il 140. E allora è stato toccato comunque. No, perché questo non è collegato al Kenwood, capito? Ah, adesso avevo le batterie. È collegato a l'ICOM. Ho capito, però no, pensavo che avessi un Kenwood. No, è l'ICOM. Un attimo il telefono. Sì. Che veloce. Passami l'acqua. Era il telefono, era. Basta, adesso non ho più voglia di continuare con questo cavo. Da voi che hanno cominciato a uscirmi, che non andava in un modo, non andava nell'altro. Mamma mia. E poi già l'hai visto com'è il connettore del Kenwood, del microfono, cazzo, mamma mia. Vabbè. Niente, la batteria, no. E infatti adesso c'è la batteria, ci sono le batterie. E allora, stamattina seppi, che preso ne hai? No, non ci sono andato a pescare, sono andato a fare un giro così. Bravo, sì, te devi farti due lanci a calamari o a seppie, il mare già sembrava calmo. Corrente c'era un bel, c'era corrente solo. Perché era agitato in questi giorni? Ma c'era un bel di corrente, si vedeva. Corrente la fa scarrocciare e non fai nulla. Comunque già ce n'è quest'anno. Già sembra che ce ne siano di seppie, non so calamari, quello non lo so. Ma sei andato? No, ma ho visto che pubblicano chi li sta prendendo. Troppo freddo, prima c'avevo più passione, nel senso che ci andavo con la punta a un freddo di notti sotto il palo che c'è a Malai vicino lì. Ma di giorno qualche lancio a seppie così, cosa di notte già stava sino a trinze con i gosi, con gli scacciacqua a riscaldarti bene, invece di mettersi roba pesante che ti ostacola tra l'altro. No, adesso vedo i giubbotti riscaldati, caro. Lo so, già li ho visti. Ma io me ne robaccio addosso, è meglio, sicché un kiwi è soggo di lusso, anzi su di buio. E anche io faccio così, il kiwi mi metto. A volte mi metto col pigiama sopra. Ah no, sicché ti è passata la passione così. No, il freddo lo temo adesso, perché i dolori, tutto quanto, capito? Non fa più andare, non sono più un ragazzino che. No, la passione non mi è passata. Diciamo che ci sta andando di meno perché non lo so, non mi attira più andarci sempre, prima capivo proprio una cosa continua, spendevo tanto di quei soldineschi, lui. Intanto già ne ha aumentato un poco. E ti inanni senza nuda la maggior parte dei ribuschi, manco la spesa dell'esca allora. Gli americani costano 5,50 euro, mi pare, 5,90 euro. Io uso americano, non uso altri birri, sono gli americani. Ehi, americano, bibi, insomma, costoso, è costoso, l'unico a tentare quando è il periodo estivo, primaverile magari, ma d'inverno, d'inverno puoi tentare solo seppie, almeno cammini, ti muovi e ti scaldi, seppie, calamari. Sara di mezzo alla schiuma. Allora. Però adesso roba grossa, spigola adesso puoi trovare, vedi, quella roba lì. E Oliverio, te lo ricordi quando si è incendiata la Panam Serena a Porto Torres? Eravamo a fare il Capodanno a Platamona e contatto con noi di Roma, e questa vecchia vecchia ha detto, tornate domani, se no ce la butto via questa roba, non so dove mettermela, tornate domani e facciamo un altro pranzo. E io gli ho detto, sì, però io vengo tardi, stiamo finendo tardi stanotte, ho detto, se vengo vengo verso mezzogiorno, così, vabbè, non c'è problema, allora che mangiamo, mangiamo. E così gli ho detto, mi porto anche la canna, una cannetta, a vedere se c'è qualche cosa. E questo amico mio ha detto, adesso porto la canna, quella da 5 metri. C'è una canna da 5 metri, quelle antiche, non so se ce le presenti, chi lancia ne un bel. Ha preso la rincorsa, è bravo, è lanciando, facendo. Ha preso la rincorsa, e quindi di su lancio, non gli ho visto manco il biondo. E io avevo una cannetta di quelle da 3 metri. E così, tanto per divertirmi. Sul verme, cazzo, lancio, come lancio, cazzo, mi passi la letta, ci cazzo tu ma una canna, lo sai cosa ho preso, una licciastella, bella, mi sono stato 1,3 kg, 1,4 kg, sono sceso tutti gli amici miei, e beh, pescando state lì, già ho pescato una licciastella, che è sempre la canna sua, probabilmente era lì in zona, e come ha sentito il tonfo, sai che fanno così, come sentono il tonfo nell'acqua, è quello che le fa avvicinare se sono in zona. E allora, e tu non abbiate manco un pesciarino, io ho preso quella licciastella, una mormora e un coso, un muggine, che non so come ti ha fatto attaccare, mi si è usa, lo si è attaccato alla coda, non so come ha fatto, l'ho preso alla coda. Ehi, quante volte è successo, buh? Davvero, che si attacca per la coda, per la pancia, boh, non si sa come facciano. Forse sguizzano quando vedono la lenta camminando e magari si aggancia, boh, non lo so. Allora, la fatta sta che ne ho preso uno anche bellino. Che se l'ho giubilato tre di pizza, e non l'ho abilato manco un pesce. Cazzo, tutti i cazzi, da tappa e da Gianni, con una cannetta, c'era tutti i volanti a ridica, non si occupava con questa cannetta. Con la cannetta da nuda pigliata, io la chiamo la cannetta cannosa, ho preso anche un'orata con quella canna lì, da 2,950 kg, al presidio militare. Che cazzo sono parati a vedere, quando la giocavate? Cazzo, due, tre canne, c'avevo due canne grandi, con la nicchia si è preso con quella, te l'immagini. Mulinello Shimano e... quello piccolo però, non il grande ce l'ho nella traccata e ce l'ho fatta tirarla fuori tranquillamente, è venuta mezzo morta fuori, capito? Fortuna, è vero, ci vuole molta, molta fortuna. Cazzo, io pensare che io entravo anche d'inverno, gennaio, freddo, io cazzo mettendomi la muta, e da buio d'inverno la maggior parte se ne esce, con qualche polpo così, ma poca roba, già è capitato di prendere un po' di seppie, ma proprio saraghi o orate, raramente, capito, in pieno inverno, ma freddo. Con la muta lo stesso lo sentivo, ma peccato di ricavi la muta, faccia ammatti, non mi voglio assistere. Ecco che erano della Sebunendi, ui mamma mia, io non me la mettevo da qua, da casa, me la mettevo là, capito, acqua calda, la sensazione è bella quando te la metti, ma poi purtroppo ti scappa qualcosa dentro la muta durante la pesca, boh, si è arruinato, tempo 20 minuti come sta venendo un freddo, e devi baffozzare in sci, capito? Perché le contrazioni ce li hai, non è freddo che senti, freddo magari se lo senti ma nei guanti così, nelle mani un po'. No, io di inverno la verità non ci sono mai andato, dalla spiaggia sì, ma entrare dentro no. D'estate sì, facevo delle belle pescate, quando ancora il quinto pettine oltre gli scogli andavo, beh oltre, andava bene lì, dove c'è a fondare, e c'era un bel ettare di sipi, di goglio, c'era un po' di roba, anche scorfani prendevo, scorfani, va bene lì, mica, tutto quello più bello dell'altro, però dovevo uscire, ogni volta che li prendevo dovevo uscire, toglierlo sulla roccia, poi rientrare, è un casino, lo scorfano è un casino, perché se ti punge sono cavoli, e vabbè. Li ho presi anch'io, seppie e polpi lì, ho detto pettine, ma dietro ti parlo, non come quegli scudi che ci arrivi a piedi, è oltre gli scudi, poi tra il quinto sesto andato. Sì. No, lo scorfano non mi piace proprio per quel motivo, capito? Se magari oltre mezzo chilo, allora sì, lo potrei anche sparare, ma se è più piccolo, io già rimane ghibi. No, anche io piccoli non è sparato, perché poi toccava o uscire oppure fermarti sugli scogli e cercare di chiuderlo sugli scogli, che dopo guizza e fa, e magari ti divulgi più. Sono uscito, tolto una rada da lì, il frutto da lì, una rada ma grande, io non avevo mai visto rada così bella. C'è tutta la folla accanto, tutta la caraiete come abbiamo visto togliere la fuori perché c'era attaccata la fiucina. Cazzo, praticamente tutti quanti si sono avvicinati e si sono allontanati, noi tutti e questa c'è la coda velenosa. Prima di tagliare la coda non vi avvicinate perché se vi dava una puntura questa qua vi fa secchi. C'aveva la merma sopra lui, mai visto ne avevo così. Sono pericolosi, bisogna tagliare la coda, perché è vero, se vuoi continuare a pescare. No, io ho sbagliato un colpo di cossa, una di, perché ho toccato poi l'asta, ho sbagliato la cossa. Ma la torpedine? Io la torpedine l'ho presa con la canna da pesca per dottore, c'ho ancora le fotografie. No, io ho preso a fucile, cioè, quando sono uscito poi sono cazzo toccato l'asta, ma ho sbagliato una cosa, vorrei me ugare, uiuia. Ma credimi che io gli ho entrato subito il coltello, avevo un coltello sul bacco, gli ho entrato in testa per ammazzarlo, l'ho lasciato col coltello infilato della busta nella busta, poi se l'ho arrivato a casa l'ho messo nel lavandino, beh lo sai che era ancora vivo. Ah no, io per esempio se sto entrando, non è grande, la lascio stare e dico dopo quando torno ci passo a vedere se è ancora qua, è continuo, capito? Non la sparo se sto appena entrando, se sto andando per dire verso gli scogli, la lascio stare. Ma chi si cammina, non è chi? E poi una volta ho pescato un verme, come si chiamano? Un serpente d'acqua, mai preso da cosa del genere, un serpente d'acqua a Portottone. No, mai visto. E rimane fino e lungo. E me l'ha detto uno che è un pescatore, che era, c'erano i pescherici, mi ha detto che c'è un serpente di acqua. È un serpente d'acqua, se tu lo fai a pezzettini, quello lo usi come esca e c'è andare pure come pesca. Vabbè, sì che a coso non hai mai provato a serra? Con il mugine, il filetto di mugine, non ci hai mai provato a fare quella pesca lì? No, c'era un uomo che la faceva a fianco a me, metteva le sardine, invece che metterle sotto il sale, li metteva la poletta, tra una sardina e l'altra metteva una passata di poletta, e mi ha detto che era una sua comodità perché per staccarle col sale ti viene male, invece la poletta non si fa dura, si staccano subito, capito? Chiaro sanno le cose. Beh, questo qua prendeva certi barracuda, glielo ho fatto io, c'ho un coppo enorme, di un bel grande, il più grande che c'è. Gli ho comprato un pesce serra di chi di mare, c'era stato un chilo e mezzo. Beh, lo sai che se riusciva al coppo saltava fuori. Una sorte. Se no quello che ho preso io lì al terzo. Tutti i turisti dallo terzo giunti a vederlo, ogni bestia che... Poi c'era uno, sai cosa faceva? Alle 6 di mattina quando andavo presto io, no? C'era questo qua che passava, c'aveva una specie di barchetta con uno spago lungo e praticamente c'aveva tipo, che posso dire, tipo un paramento rimaneva, no? Con tanti anni attaccati sotto e quello lì aveva preso due volte la spigola, aveva preso spigole belle. Camminava e questa cosa scarrocciava piano piano, stava in lontananza e lui la faceva camminare, capito? Sì. E comunque già si stanno sempre più avvicinando e aumentando i barracuda e questi pesci tropicali, diciamo così. E il caldo li fa avvicinare. Io una volta ho visto una studia a Portottone, cazzo, erano 6 o 7 barracuda, hanno fatto quel cerchio e hanno circondato un coso di pesci. Siamo saltati in acqua, come saltavano anche i barracuda, saltavano e si riprendevano al volo. Una cosa mai vista, infatti il giorno non si pescava nulla, nulla, non toccava il pesce. Qua ci sono i barracuda, è un casino. Però ti puoi divertire a prendere a loro, perché comunque sono dei bei pesci. Sì, sono belli, ti diverti anche, però il fatto è che mi hanno detto che la carne è un bel asciutta, ma me lo volevo regalare quell'uomo. Ha detto che aveva il freezer pieno, che ne aveva preso chissà quanti. Dice, se lo vuoi te lo regalo, non c'è problema. No, no, no, ho detto non le volevo, poi la carne è asciutta, ma ha detto, no, ma non è che mi piace di assare. È per il gusto di pigliarli. Sì. Ehi, no, io l'ho mangiato ed è buonissimo, capito? L'ho fatto in verde, l'avevo fatto, ed era buonissimo. Dipende appunto magari come lo fai, vedi, le salpe per esempio mi piaceva spararle ma non mangiarle. Ui. Le salpe mangiano erba, gli arugrini, gli ommari, gli urlai, anche io, però stanno in superficie, stanno le salpe, passano a branchi in superficie e tu devi mettere a pelo là. Meglio. Sì, ci stava anche l'orata e mezzo, maledetta. Capito, farà la furba. Ehi, e poi con le più vedono, scappano come sai. Non lo so, si riconoscono, salve, hanno le rigattine, però mangiano erba, se tu li vedi mangiano sempre erba. Ehi, ma se sono grosse solo le sparavo. No, non quelle piccoline, no. Quelle grosse, giusto per sparare. Magari c'è il metodo per farle, magari si lasciano in salamuia, come si fa con le carpe. Io carpe non ne avevo mai mangiate, c'è questo amico mio che andava al Cuba. Ecco che addirittura una carpa gli ha fatto partire la carne in acqua, ce l'aveva appena comprata con la carne, aveva pagato un sacco di soldi. Fatto partire la carne in acqua si è dovuto tuffare, che ha detto gli ha messo di carpa 4 kg e passa pesante. E è riuscita a prenderla lo stesso. Beh, anche lui c'aveva un freezer pieno di roba e mi ha detto, già mica ti sto portando 4-5 carpe belle, massicce, messi 2 kg, roba così. E lo attendiamo di volte, a me non mi piacciono i pesci di fiume. Ti lo dico come ti vale, non ti preoccupare. Beh, lo sai che li ho fatti come mi ha detto lui e mi sono piaciute. Me le ha fatte mettere, me le ha fatte fare a tranci. Mettere nell'acqua salata tutta la notte, dopo farle come il baccalà, col coso, impanate con le... non impanate, come si chiama? Con la semola, me la fate mettere nella semola e friggere. Ma non c'è cantera di volo? Io le facevo... le prendevo anche qua, lo sanno, impattavo Fabi di Ginzo. Le facevo perché poi sono grosse, ma la sorte, sono belle perché sono combattive, vedi? Ti fa dannare, perché parte e non avremmo così. Le facevo siccome, a cartuccio, nella pancia, le aprivo, le pulivo, le mettevo dentro pomodorini, aglio, prezzemolo, tutti i condimenti, olio. 20 minuti le lasciavo, capito, a forno caldo, chiusa dentro la stagnola. Ogni sapore. Ma le mettevi sempre a bagno la notte col sale? No, direttamente così già. Provale se ti capita. Sono veramente buone perché tutti gli ingredienti essendo chiusi, capito, si mischiano alla carne. A me mi hanno portato dei mugini, non sono riuscito a togliere le squame. Ci voleva il picco e la matta per togliere le squame, erano grosse. Cazzo di abuzzalo, ma grossi però, e sono stati pescati lì a Valle d'Uria con la dolarita. E anche quelli lì, ma la sorte sono buoni, sono buoni, caspita. Quelli io li pesco, ma non li pesco in fiume questa volta. Però me ne ha portato due enormi. Lei non crede, mi ci ho dovuto buttare, non sono riuscito a togliere le squame. E l'ho buttato, se non sa lui mi troncarussi. Perché cazzo ci ho provato, col coltello non è uscito, erano ben grosse. Insomma le squame. Beh, sono lunghi. Belle bestie sono, da oltre il chilo anche. Io non sono mai riuscito a prenderne un intero, li sparavo e li spaccavo in due. No, se guardi i miei video già ce n'è qualcuno, però va a sorte, essendo molto affusolati, capito, non è tanto facile prenderli, soprattutto quando sono a 3-4 metri. E loro camminano in branco, lo sai cosa quando è che li puoi sparare? Quando scendono giù per frugare la sabbia, che si stanno abbassando per frugare la sabbia, così sparo anche la griglia così. Quello sì, ma se si ha l'aspetto, capita, ti passano davanti, è un'emozione veramente bella, capito? Soprattutto quando lo prendi a quella distanza. Io li prendevo, ma quando c'avevo l'arbalet a due elastici, l'arbalet Scipion, campione anni 80, me lo ricordo bene, c'era la bandierina dell'Italia disegnata, era un bel lungo, era un bel mano. Caricavo due elastici, cazzo, non li davo manco anticipo, li sparavo, li pigliavo zero. Sì, era una bella pesca quella lì. Ah, li sparava tutto, tranne gli scorfani, al resto sparava tutto. E adesso non vedi un cacchio, se no la stella con quattro, prima già si pescava bene, caspita, prima io riuscivo sempre con siepi, pulpi, sarghe, di tutto. Io sparavo anche le bambose, quelle grosse, lo sai quante sono le bambose fritte? Ma se sono grosse appunto. Quelle grosse sparavano, quelle piccole no, però quelle grosse le faccio sempre all'anguilla, sa il sapore dell'anguilla, lo sai. E se no i verduni, i verduni, barchette, quei pesci lì, se ci sono grossi, adesso buono. Quelli lì vanno in mezzo alla Pusidunia, in mezzo alle alghe, escono da mezzo alle alghe e lascia Pusidunia. Una volta stintino, lo sparo questo groppo, catena, in mezzo all'erba, in mezzo alle alghe. Però questo groppo lo sparo, lo prendo, l'ho attirato per farlo vedere a mia moglie da fuori, per farglielo vedere e domani non si stacca dalla fiuccia. Il grongo non era grossissimo, era bellino ma non era grossissimo, ma ne ho preso grunghi belli. Una volta la torretta, questo amico mio, non io, un amico mio l'ha sparato 1-4 kg e 950, aveva un capo ma durbaro, Sì, io li prendevo lì e poi più avanti dopo la torretta nella tua spiaggia. E quella è la zona di grunghi e murene tra la rotonda e la torretta lì. Ci sono degli scudi sott'acqua e lì si pesca bene. Ma sta morendo, forse perché il sottocosta ormai lo stanno facendo anche i pescherecci, diciamo così, dai. I gusti sono tutti in occhi sotto a pescare. Ma a Calamari ci sono quelle petroliere, no? Che di notte accendono le luci, tutti a fianco alla petroliera, ragazzi, figli un po' di Calamari, è pieno. Se esci gommone, Sì. Devi andare un po', però quando ci arrivi sotto, come fanno luce, è tutto pieno di Calamari, il migliore lo può l'altro. Ho amici che ci sono andati e hanno fatto razzia. Ah no, cazzo, le spese bisogna toglierne già. Ma questi che poi non c'hanno manco lavoro, quindi si vendono il pesce, capito? Uno scende a pescare col fucile, l'altro sta sopra, pesca calamari, pesca, e quello che trovano si vende. Prima buttavano i parametri, cazzo, andavano le barche di notte e rubavano. Ladri! Chi è avanti? Ti stavo dicendo che prima andavano tra il quinto, il sesto piede, il settimo, mettevano sempre i parametri che li rubavano, non erano più buttati. Di notte andavano e li ritaccavano. Loro ritornavano la mattina e non c'erano più. Rubavano parametri. C'era un periodo lì dove c'era lo scarico, andavamo a Muggini andavamo a strappo, Gesù Mario, quanto ne prendevamo con l'ancoretta, ma dove scarica il fiume, cosa c'è, scarico fognario pure? No, dove scaricava proprio la fogna. Andavamo lì a sognare Muzzaro, ma era più che altro per divertimento, e poi perché c'erano le lecce in mezzo, e a guantare qualche leccia, capito? Sì, ma a me è inutile, proprio per quello non lo mangio, perché non mi sto mangiando la fogna con tortorese dal molo a migliaia, non pochino, a migliaia. Proprio branchi di mucili, gatti allucinanti, tutti mucili grossi, mangiavano dallo sbocco della fogna. Visto quei miei occhi, quel giorno andiamo da mia suocera, dopo che abbiamo visto questa scena, a Porto Torso andiamo da mia suocera a mangiare, e cosa ci avevo fatto i mucili? Io ho detto, no, io non le mangio, scusi, signor Giovanni, ma perché non ti piace? No, signor Giovanni, non ne ho voglia oggi, proprio non mi sento... E da Lombardese ha detto, no, ma non le mangio, non le voglio. Ah, perché cucinati oggi? Cazzo, poi dopo che loro hanno mangiato noi l'abbiamo detto, non ha più comparato. Vabbè, ci sono quelli di Oristano, no, non è detto già, capito? Non è detto. Lo so, ma quando vedi queste cose, poi ci pensi quando lo mangi, non pensi. Poi anche a Oristano ci sono le fogne, non è che non ci sono, loro mangiano tutta la porcheria, amici. Che diventano enormi, ti sto dicendo che questi che mi hanno portato hanno le squame che non iscia nella cantina dei grussi, capiti? E non mi comandate, ne potete fare a tracce, li mettevi in forno, poi la pelle la pulivi tutta intera, e la toglievi, ti mangiavi la carne, che ti viene a fare? Sì. Ah, ma non mi piace, no. Poi Ruggine ha sempre quel sapore di... un sapore strano, devi togliere tutta la pancia non la devi mangiare la parte di sopra e basta, se vale la pasta si fuggi terrati. E poi mangia mezza la erba, cosa tutto magna, non è che abbia una carne molto prelibata. Vedi, se tu vedi barracuda, mangia a carne di pesce, è diventa grande così barracuda, però... è un pesce raffinato, va a caccia di prede e si mangia le prede, quindi si compone tutto con carne di pesce. Sì, sì, ma è un buon pesce, c'è una carne rossa, rossa, guarda, bellissimo. Questo me l'ha fatto quelli che chiamano uccioni, aspetta, come si chiamano? In portatore si chiamano uccioni, in asciugaretta. Una sugarella che sono lanciato appena arrivato. Quelli polonesi mi hanno detto, cioè, siccome abbiamo fatto gli amici, chiedo, e beh, pescando stasera non si piglia nulla. La sugarella, una volta mi è successo con la taruta, e una volta con la sugarella, lancio, come lancio, ho detto, forse la corrente, si deve andare di la netta, detto, ma forse c'è corrente solo. Quando tira si pigia la gara, se no che non è corrente, lo piglio, tiro come ho lanciato proprio, mi ha appena lanciato. E se è grande, ma 700 grammi. Divertimento era quando c'erano i muri aperti, quello era divertimento. E io andavamo a cantare. E dovevi far fila tu. Perché stai uscendo tutto gracchiato? Ecco. Avanti. Vediamo, mi sentite da te due, grotte, dammi un controllo, guarda come sono. Ola, ola, ola, ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però io ti sento un basso, Santiago 2 e la radio di 1. Santiago 2, guarda se aumenta così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre in basso, sì, boh. Cosa stai usando? Ma niente, sto facendo una prova, guarda un attimo se aumenta. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. Prova a mettere prima in una posizione e poi nell'altra, dai, che guardo bene. Mi sento. Ehi, prova. Questa è una posizione, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e questa è l'altra, ola, ola, ola. Ma non cambia nulla. Sempre Santiago 2? Sì, sempre così, sempre Santiago 2, non cambia nulla. Che affari che stai usando? Aspetta un attimo, sto provando a fare una cosa. E qualche... Ola? Qui Antonio Popolo. Ui, ciao ciao. Ui. E beh, come va? Mi stavo facendo una cosa. Foggia. Giù, e ti ho sentito, mi stavo sentendo il discorso. Ah, cavagara. Ti abbiamo fatto compagnia allora, io e Luca. Capa, mi sono tornato da poco fa dall'Eurospin. E io ci devo andare, perché non è che ci sto comprando molta roba, però c'è il gel che metto nei capelli, che è un bel buono. L'ho sempre usato, quello lì, l'ho preso da altre parti, mi lascia tutti i residui, invece questo qui è buono. Ma mi hanno detto che è buono anche da MD. No, no, quello di Eurospin non sono sicuro, perché l'ho sempre preso io. E non ti sporca il capelli. Sì, ma mi hanno detto anche che la AMD è buono, quanto quello dell'Eurospin. Me l'ha detto un amico da poco. Vabbè. Io non lascio mai la strada vecchia per la nuova. Sono abituato con quella adesso. Quando c'ho tempo ci vado e me lo prendo. Devo prenderne 4 o 5, perché tanto ci vado solo per prendere quello, un biduano. Cappa. Già qualche cosettina, però sto comprando molto di più da MD, mi trovo meglio. Io invece compro da vita, che due passi da casa, sono conosciuto, le commesse mi conoscono, mi trattano bene, vado lì. Dove? Da vita lì. Ah, sì, lo so. E poi c'è il bar, con 4 minuti al caffè del vino, cioè insomma, è abbastanza, poi fai due passi sempre nel corridoio e da lì li vai a finire a dare una isa. Sì, lo so. Luia. Cavolo. Questa giornata strana oggi. No, dai, stamattina si stava bene. Io mi ho fatto un giro, mi ho preso un bel po' di sole. Ho fatto buona, c'era un po' di gente, c'erano un po' di macchine, era tutto occupato, i parcheggi erano tutti occupati. Sia palai, ho visto la macchina uscendo e mi sono infilato qui. E a Trattamone erano tutti occupati i parcheggi, non vedeva le ombre di lui. C'era gente che passeggiava di spiaggia, gente che era lì nella panchina, ce n'era di gente. E a Natale se va bello scendo. Scendiamo e via. Guarda adesso già. Adesso fai amico, vai. 1, 2, 3, ciao a tu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E caspita, adesso sei 5 anche. E anche la radio ha migliorato di brutto. Ma un attimo che scendo giù. E Santiago 5 sono. Sì, adesso sì. Santiago 5 e la radio 5. Perfetto. Ma dai, aspetta che saldo tutto. E via. Che antenna stai usando? Sempre la stessa? Kappa. Perché non ti prendi un'antenna come ci deve? Già, perché sono povero. Vaffanculo. Però c'è tanta gente ricca di soldi e poi povera di cuore. Davvero? Davvero. Avanti. Ciao, già, buonasera. Oi. Ciao, mi hai sentito anche a te, Budolter. 9.30 qua, grazie. Positivo, l'ho appena acceso. Buonasera Massimiliano. Ciao Antonio. Cappa, buonasera. Mi in compagnia di Gianni e Antonio Grode, ma non so se lo senti. No, negativo, non lo sento Antonio. Io lo sento ma Santiago 5, stasera arrivo a Santiago 2. Adesso è aumentato, Santiago 5 di colpo, chissà che la sta usando, da qui giambo. Io non lo sento per niente, proprio zero completamente. Lo saluto se lui a me mi ascolta. Claudino, sì. Aspetta un attimo. Io qua sono, te l'ho salutato. Io già lo sto sentendo, Massimiliano Buzzore, che ormai arriva come una furia. Cosa c'hai, antenna nuova, Massimiliano? Massimiliano ha detto se c'è l'antenna nuova, Claudino. Negativo, finite le antenne. Ormai. Un'antenna di macchina, ciò. Cosa antenna di macchina? Non aggiuare. Già va bene, là. Non ti preoccupare. Tanto, mettiti... Cazzo, ma ce l'avevi la mandova turbo sul tetto, scusa, Ma che non l'hai lasciata? Te l'ha venduta perché è povera. Proprio come la boomera, però che pompa. Meno visibile. Ma cos'è la boomera? Che io l'abbiamo avuto direttamente un'antenna, tanto stai spendi, spardi. Guarda una antenna, come ti si tocca e basta. Io, guarda, se ci fosse stata la mandova 5 me l'avrei ricomprata. Migliore. quanto sembra. La 1 secondo me è il top di gamma. La turbo ci va bene, ma è troppo abbruttosa. No, io ho parlato della Mantova 5, non della turbo. La turbo c'è sui difetti. La Mantova 5 a me mi è durata 12 anni, no 8 mesi. La 1 va è il top di gamma proprio, era perfetta. Sì, la 1 praticamente aveva meno QRM, prendeva molto meno QRM, ma aveva più o meno la ricezione della 5 e prendeva meno QRM, quello ci aveva, non è che fosse chissà che cosa. Come i DBD guadagni erano in uguale parità. Sì, ma era la migliore. Ma le Mantova sono migliori. Mi parlano tutti di questa Superlem, solo che è enorme. Guarda che ci sono anche le Roma, non so se voi le conoscete, ci sono la Roma 1, la Roma 2, oltre alle Mantova, ci sono anche le Roma. Le fanno ancora? Ma ne ho sentito parlare da alcuni che vanno molto bene quelle antenne. Io ho la Roma 1 e va benissimo. E sarà come la Mantova sarà. Io vedo, ce n'è una vicino a casa qua piazzata, minimo ci sarà più di 30 anni. Superlem, ma sempre perfetta. C'è quella della Budiluzio, non so se l'hai mai vista. Quella lì è un mediano e non si è mai pigiata. La Mantova 1 adesso non mi ricordo se è 1 e 5, però c'è a parte il mondo. Vabbè, non ce l'hai l'antenna tu adesso già, ti lasci quella fin quando va. Un dono, il primo metto forte che ha fatto, mamma mia, filata, capito? Quelle sono soggette, capito, già. Poi magari se li fai qualche rinforzo come si deve, già dura. Le ho preso tre fascette, l'ho fatta scendere appena più giù, e sicuramente è stata montata, un elemento è stato portato più fuori e quindi ha ceduto quello lì, l'ho messo fin dentro e gli ho messo tre fascette d'acciaio attorno, in più l'ho tutta vulcanizzata, tutta pronta rifatta, bene, adesso sembra che sia durata. Sai cosa avrei fatto io già? Avrei preso, il pezzo grosso di una canna da pesca, spaccato a metà per metà, messo quello fascettato e così la rinforzo un pochino di più. E vabbè, comunque, io ho anche la Sirio sul tetto e ti dico che non c'ha niente a che invidiare alla Mantova, quella autoradiale. Un metro più bassa, 6,15 metri, ti dico che va veramente, veramente bene, anzi, in certi punti è meglio della Mantova. L'Assirio che codice c'ha? Non so, quello che c'ha, non so se è la 2016 o 2008, una cosa del genere. Ma c'è un boccione, c'ha il rame, sarà grosso 3 mm dentro, si vede. C'ha tipo un bicchiere trasparente, leggera come antenna e che c'ha autoradiali. Quella lì la fanno ancora. Fanno il modello nuovo adesso. Ah, mi sembra che se l'aveva comprata Marco Scurio, la Sirio, quella del modello nuovo. Però dice che le cornate mi hanno già buttato variare, appena piazzata mi hanno buttato variare. Già, io già usai dove abito e qua ci sono cornacchie, colombaci, tortore e tutto bio. L'altro giorno c'erano quei cavolo di, come si chiama, quegli uccelli neri, quelli che volano tutti in gruppo, non mi viene il nome, va. Cazzerò tutti sopra i radiali, grazie, bene, fai vedere il dronchelli. Gli stormi? Quelli lì, eppure ancora già sta durando, grazie a Dio. Finché dura fa figura, quando si faccia tutto anda meno a testa, non è poco più, va bene lo stesso. Esagerato, ma nei due, che andò a farzare due. Vabbè, quella Mantova che abbiamo piazzato assieme c'è sempre. Quanti anni c'è adesso? Un bel anno. Ce l'avamo io, tu, Gabbino, Popolo e Pierpaolo. Io l'ho portata giù l'anno scorso per cambiare la fascetta della molla che mi si è rotta quella. Io ho messo le fascette nuove gli ho dato una lucidata, visto che avevo in mano, gli ho dato due passate di vulcanizzante e torna da nuova nuova. Sì, davanti fa così, io li passavo l'acciaio con cerrici sopra, la facevo lucida lucida, quando l'ho rimontata anch'io una volta. Ho cambiato solo, sai che cosa, dove si attacca il piede, quella piastrina lì. Ho cambiato quella, già che c'ero, gli ho messo il filo più grosso all'interno. E l'abbiamo fatta con Fabrizio e l'abbiamo tutta quanta restaurata bene, che ti pompava il gosama. Senza radiali che ti usciva lo stesso forte. Ho fatto male che mi aggiungava. Sì, ma che poi l'avanto va, vabbè, i radiali sono un piano di massa, alla fine, non è che l'antenna, se non ti crea problema, si poteva riparare tranquillamente, capito? E vabbè, ormai c'è questa. E vabbè, lo stesso, Avanti, bombolos. Diciamo che io me la vi attenta. Ho capito che quella è migliore alla fin fine. Comunque ci può, se la trovi me l'avrei piazzata così, me l'avrei piazzata. Ma c'è qualche avanzo di magazzino, però ne vuoi un bel, capito? L'altro giorno ce n'era una usata, un avanzo da 5, tanto la volevano 160 euro, più la spedizione. E quanto costa Sassari, ricato la cosa da Pusaro, la Superlem? La volevano così, 160 euro così. Ma qui a Sassari non ce l'ha nessuno quella, questa Superlem. Pusaro? No, di CB parlo piazzata per vedere se va bene, se va male. Guarda, ce n'è una vicino a casa, minimo ci avrà 30 anni. E me l'ha data? Non lo so se l'ha, non penso di no. C'ho la foto. Guarda che c'è il radiale un bel grande, ma minimo, io non so quanti anni l'ho vista sul tetto quell'antenna. Io se no la canna a pesca sia pure. E ti dirò la vita. Lo so. Gappa. Fate riprendere anche Antonio, io non lo sento, vai, rilancialo tu. Avanti, Grote! Grotino, ci sei? Non c'è. Gappa, anda bene. Deve essere sceso, vai. Sta cercando di dare un po' di segnale, ma ci non può l'antenna. Sì, è aumentato da 1,5 che arrivava a 2. Adesso arriva a 5 quasi. Mi, ti ho mandato la foto, Massimiliano, è fatta così, è fatta. La Superlem. Ce l'ho giù il telefono, tanto io sono su. Fra un po' dobbiamo fare una commissione, qui dobbiamo uscire, capito? Visto che ero qua adesso, l'ho acceso, ho sentito voi, sono entrato a salutarvi, no? Enorme, cazzo, c'è il radiale, cazzo, un bel grande. Però io l'ho visto tanti anni lì sopra, non ci sono mai spezzati. Vabbè, ma con i radiali così grandi a lui non le crea un problema, capito? È un casino. Lo so, è enorme, cazzo. Mi pare che più a Sardina Mantova, tiene 3 kilowatt tiene, mi pare, ha una bobina allucinante. Ma se no te la fai fare già, da coso, da Carlo da radio, come quello che l'ha fatto a Giovanni Originale. E che altro l'ha fatto? Si assomiglia a una Mantova, solo che sopra c'è un radialino, sarà una trentina di centimetri. Adesso non so se a metà o poco più di metà, e sotto c'ha 4 radiali lo stesso, però tiene 10 kW. E gatto cuccia! Non lo so quanto gliela data, lo ignoro. Chi sa bombare? Ma gli altri bimbi devi bombare. Non lo so se voi l'avete visto cosa c'ha Giovannino. Già lo so, già me lo posso immaginare, ma lì ce n'è di gente che parla lì a Vitalba. No, non te lo so dire, Anto. Io sento solo a lui, la verità. Io già so che una di senza intendito. L'antenna che va nel carro e va nel buccione. No, già ce l'ha sempre quella, già. Ma adesso c'ha una specie di armadio dentro in cabina. È proprio, cioè, è maniaco dei lineari. Li piacciono già. Ma ne ha uno che è spaventoso. Ne aveva accoppiato anche lui da 600 che fare in parallelo, vero? No, ne aveva accoppiate due da 1200, due ZG 1200 accoppiate assieme. 4 adesso ne ha tolto quei due e ha fatto un 32 finale. Ma quanto durerà di stazionare quando ne attacca qui di Nearini? Niente, zero. Avviso. C'ha un cavo che entra in cabina che è più grosso del 213. Si è fatto proprio una stazione viaggiante. Quell'antenna che c'ha in camion alta 2,30 metri. E già l'ho visto, l'ho visto scendendo lì dove c'erano i carabinieri una volta, un po' più giù, piano sospetto. L'ho suonato, tu li ha bucciole da giù che fa, c'è con la radio qua, l'ho chiamato, e beh Giovanni, che tra le bucciole che fai? E dice, chi subivo, se no non anda. Ma quello lì costa parecchio, eh? 10.000 watt un'antenna. Ma quelle sono antenne fatte fare appositamente, ma c'è anche Scoiattolo che fa delle antenne performanti così. Addirittura ha fatto vedere un filmato che non c'ha, non ha cose variare, ma lo stelo, da tutto lo stelo e solo con la molla, con la carica, sentiva, si sentivano le stazioni, che l'immagine. Lascia perdere queste cose, là, già. Sono antenne che non valgono a niente, è quello. Che non ce l'aveva perché Giovanni non si dà lampada. Davvero? E 200 euro mi ce la fa pagare? No, costava anche di più quella di Giovanni. C'aveva una bobina che pesava 3 kg. Mi ha tracciato mezza cabina e del camion. E non vale a niente, quell'antenna è zero. A quanto dice lui, dice che sono appena performanti, che poi guarda, questa qui è senza lo stelo, se metto lo stelo guarda come si sente, ha fatto quella differenza, ma si sentiva anche solo con, le, con l'avvolgimento e basta, senza mettere lo stelo dell'antenna. E vabbè, io a lui va bene, la Turbo 2001 va benissimo per me in macchina. Allora, io non ce l'ho lo stesso già, io ho la PLC 800, ho la Midland CTE 45, ho la Mini Turbo, ho la 5000 Turbo, 5000 Turbo è più bella della 2001, c'è un bel più di segnale, poi cosa c'è? Poi ce n'è qualche un'altra buttata anche, poi c'è una 600 mi sembra, una Minox, sì, la venne antenne. Beh, io la Minox la stavo cercando e non l'ho trovata, perché volevo fare il buco e mettere la Minox. Quelle vanno bene le Minox, vedi? Quella non la vendo però perché non ce n'è in giro di quelle lì, capito? Sì, già lo so, ma dica. Quando io ce l'avevo, l'avevo fatta comprare anche a Grote e andava molto bene, poi l'avevo rubata a tutti. Ma perché tu ti puoi mettere l'antenna in macchina? Io ce l'ho già. Ah, già hai perforato, hai? No, con la magnetica. Vabbè, non mi piace molto la magnetica. Aspetta che se no Bombolino si annoia, vai Antu, si è già annoiato. No, io la verità si dica, ho già, a me le calamite non mi piacciono. Io... sono sceso giù un attimo. Radio. È messa al posto dell'antenna della radio, l'antenna staccata messa dentro la capota lì, no, nel cielo, tanto c'è il buco perfetto per l'antenna, quello lì, capito, così, calamita zero, fili volanti niente. Eccomi, no, ero giù un attimino. Io nella multipla ce l'ho dietro, c'ho l'antenna della radio davanti e dietro c'ho l'antenna satellitale, ho tolto lo squaletto, ma diciamo che c'ho uno dietro, l'ho messa lì. Oh, ero giù un attimino facendo roba. Ah tu, cos'è? Stavo facendo roba giù. Ti ho rilanciato infatti, ho detto adesso si annoia tu. Capito già, l'ho tolto quella, solo che la multipla è troppo alta come macchina e a Daniela non le piaceva, ha detto Buganina sta cosa male una macchina autoscontro. Lo so, per dove c'è così, non mi piace, qui c'è ogni posto dove vai che mi conosco, sanno dove non vai, invece quando sei in anonimato vai dove ti piace, nessuno ti vede. Sì, infatti, vabbè io non metterò più, non mi interessa più. Sta perdendo la voglia di modulare. Sì, me ne faccio un po' più ragano, no. Vedi che entra anche poco, non mi interessa più come prima, là. Mi piace un po' quando c'è un po' di propagazione 45, se no così, a fare queste così, non, ogni tanto sì va bene, ma non mi attizza più, va. Vabbè. No, a me la passione non è mai passata, io ho tanti anni. Tu pensa che avevo 14 anni quando ho cominciato proprio la baracchina. Ce l'ho tanti anni, la passione non mi è mai passata. L'ho sempre avuta, malgrado molta gente mi abbia combattuto, anche donne. Prima c'erano un po' di ragazze, quindi erano gelose, eccetera, eccetera. Io ho sempre avuto il baracchino sia in macchina che a casa. Ma già, ma ti dico, qualche anno fa c'era più movimento, ma a fine devi aspettare il gatto che uno accenda, ci sono gli orari, quando si addormenta dopo il pranzo, uno azienda di zico, cazzo all'ultimo c'è coprifuoco, non bevi nessuno, cioè, la radio è bella per farla sempre, no? A orari, capito? È brutto così, secondo mio parere. Alle 8 mi hanno detto a mangiare, quindi, ma poi riprendo, molte volte io capita che riaccendo, li ascolto e c'è gente che rimane, rimangono anche sino alle 10, a volte 10 e mezzo, vero? Più di una volta ho fatto anche le 11, mezzanotte, ho fatto il consiglio. Purtroppo bisogna anche far venire la voglia di fare una radio buona. Anni fa si poteva fare un po' di più, però veniva sempre il gatto d'intoppe, un giramento di balle. Adesso si può fare di più, si può fare. Ma a me sinceramente piace più l'estate, perché magari quando non trovi nessuno qua ti spunti e c'è gente in quasi tutti i canali, capito, c'è la propagazione, per me l'estate è più bello. E vabbè, anche l'inverno, quando piove e non puoi uscire, già è bello stare in radio, a me piace, mi fa compagnia. No, a me c'è qualcuno che voleva entrare. Avanti, chi vuole entrare? Non lo so. E cosa vuoi fare? Oh, yeah. Però la soddisfazione più grande che ho avuto io è quando ho messo questa antenna. E che a me non mi faccio sentire. Dai, Anto, quando c'è la possibilità, ci metto una bella 5 ottavi. Ti fa una bella stazione come Dio comanda. E già va bene. Ma per fare due chiacchiere così, viene a fare i buchi, Anto. Ma io dico la verità. Secondo me, mettendola nello stesso punto, non è che cambi più voi molto, secondo me. Cosa puoi cambiare? Un punto, due punti, ma non di più, secondo me. Secondo me questa va alla grande. Non mi sto lamentando, non va bene. Sì, Antonio, non ho detto che va male, però una 58 ti cambia anche la ricezione, attenzione. Ricevi molto di più, capito? Vabbè, comunque, momentaneamente va bene anche quella, vai già. Da cosa che c'aveva, da chi su manganello che c'aveva, adesso ha migliorato già. Dopo, quando ci avrai soldi, prima deve pensare alle cose più necessarie, da lui ho visto. Ah, io dico una cosa, se funziona bene ci lascerei in questa, qui che funziona. Ma avete parlato in due, non ho capito né uno né l'altro. Tu hai tirato sotto, Antu. Vai, vai, Antu. Ho detto che io per il momento questa mi soddisfa, va bene, no, non posso dirgli niente. Finché funziona, goccia. Ma pagata. Cos'è già che hai detto? Che avete lo stesso segnale con l'Antulio, vi siete sovrappopolati, non si capiva né uno né l'altro. Ci avete tutti lo stesso segnale, non avete tanto di più arrivare. Ma tu come sei invece? Mi attacco a Mazinga Z. Che attacco pure io, me. Antonio è vicino, capito? Quindi mi arriva lo segnalone. E anche a Portottone stamattina l'ho sentito dalla macchina. Gappa, gappa. Già, per un attimo non sei uscito. Perché ho premuto male il tasto. Non sono uscito per quello, guarda. Adesso guarda se sto uscendo. 1, 2, 3, prova. Questo cos'è? 3009? No, questo qui è il Galaxy. È vero che c'ha quella appena di ecco. Gappa. Ma io non mi posso lamentare. Sono soddisfatto, dico la verità, arrivo un po' dappertutto, mi intende a Portodorra, mi intende a Ugilo, mi intende a tutti i baci. Non mi posso lamentare, dico la verità. lo che dura dura quando si fascia, mi fa giù chi sa buoni appoggio. Quando è si può curarla, non ne ho problemi. Tu lo sai cos'è?